In questo mercoledì 11 marzo, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre sull'euro, parità sul dollaro vicina. Ormai c'è questa tendenza tra le due monete più importanti. Gli altri giornali aprono su cosa? Beh, chi ce l'ha fatta a fare una nuova apertura, come si dice in gergo, a ribattere, ha l'apertura su Berlusconi assolto, perché la soluzione della Cassazione è arrivata ieri attorno a mezzanotte. Ed eccolo qui, Corriere della Sera. Berlusconi ancora assolto, la Cassazione conferma la sentenza di secondo grado nel processo Ruby. Libero Silvio assolto, ora chi paga? Il giornale, il Bunga Bunga era una bufala. La Stampa, Ruby assoluzione per Berlusconi. Altri giornali invece, dei quali, per i quali io ho l'edizione evidentemente prima della ribattuta, dopo quando è arrivata questa notizia certamente importante, aprono invece sull'altra notizia del giorno, vale a dire la politica, il sì definitivo alle riforme costituzionali alla Camera. Repubblica, sia la riforma divisi PD e Forza Italia. Per il Fatto Quotidiano, ecco i 357 che distruggono la Costituzione, c'è l'elenco, nome e cognome di tutti i deputati che hanno votato sì a questa riforma. Il Messaggero, nuovo Senato, sì della Camera. Per il Manifesto, carta perde. La carta è quella costituzionale, c'è la foto di un Parlamento vuoto. Avvenire, le riforme decollano, ma spaccano PD e Forza Italia. Allora, intanto voglio partire, visto che due giorni fa ci siamo occupati di reati, di paura percepita, di sicurezza nelle nostre città italiane, da quello che racconta il Messaggero, e sono dati del Viminale. Il Viminale è il Ministero dell'Interno e quindi sono dati ufficiali sui crimini in Italia. Sara Menafra ne scrive a pagina 15. Crescono le estorsioni, sono invece in calo le rapine. Avete capito bene, in calo le rapine. Questi sono i dati ufficiali, che voi ne pensiate. Crescono i reati commessi da minorenni, crescono le estorsioni, come salgono in maniera abbastanza significativa i furti con destrezza, quelli fatti da ladri che si introducono nelle abitazioni con una scusa. Contemporaneamente però calano le rapine e i reati commessi da stranieri. Questo è un altro dato, calano i reati commessi da stranieri. È un quadro con luci ed ombre, quello che emerge dalla raccolta di dati sulla criminalità in Italia realizzata dal Viminale nel 2014. Ed eccole qui alcune cifre. La lettura dei dati distinti per tipologie mostra luci ed ombre. Significativo che le estorsioni siano aumentate, in particolare nel centro-nord. Le estorsioni sono aumentate del 10,8% rispetto all'anno precedente. A far salire il totale soprattutto Bologna, dove pensate aumentano del 66%. Numeri in crescita anche a Firenze, più 15%, e Milano, più 12%. Questo per le estorsioni. E poi il fatto che il complesso delle denunce contro cittadini stranieri fa riflettere, questo fatto è calato del 2%. Poi, significativi reati commessi dai minorenni. Al momento sono saliti del 2%, passano a quasi 33.000 reati da 32.140 che erano. Comunque, tutti i dati forniti dal Ministero dell'Interno li trovate sul Messaggero, pagina 15. Sui reati nelle nostre città. A proposito di reati, o di presunti reati, questa almeno è la contestazione, Repubblica racconta con Giuseppe Caporale la vicenda del parlamentare Lello Di Gioia, socialista eletto con il PD. Eccolo qua il titolo di pagina 20, il patto del deputato con la banda del Cavò. Secondo la procura di Foggia, il deputato Lello Di Gioia si sarebbe prestato a fare da mediatore con dei rapinatori per fargli avere indietro il bottino contenuto in una cassetta di sicurezza a un cliente del Banco di Napoli che era stato svaligiato. Una vicenda che è abbastanza dell'incredibile. Racconta Repubblica, a Foggia, per recuperare il bottino di una rapina in banca non basta presentare una denuncia a chiedere aiuto alla polizia e ai carabinieri. Chi vuole avere indietro i soldi deve rivolgersi a un politico, cioè a un onorevole per lo specifico, precisamente al deputato Lello Di Gioia. da sempre amministratore pubblico di riferimento in città. Questo almeno è ciò che raccontano le carte di Goldfinger, inchiesta che ha fatto scattare su richiesta della procura di Foggia 14 arresti per la banda del Cavò che 3 anni fa svaligiò la filiale del Banco di Napoli. Secondo un'informativa della squadra mobile, l'onorevole Di Gioia si adoperò per far avere indietro una parte della rifurtiva a una delle vittime della rapina, titolare di una delle cassette di sicurezza saccheggiate. Abbastanza incredibile, se ovviamente accertato. Ci sono delle intercettazioni con una cimice che svela l'accordo ai banditi. Fu data addirittura, secondo gli inquirenti, una ricompensa per aver restituito il bottino. E questo è ciò che riferisce Repubblica, mentre c'è il mistero che aleggia su Berlusconi e questa foto che ha fatto già il giro del mondo, finito su un sito rumeno, perché c'è Berlusconi che lunedì firma un contratto con dei cinesi, e il cinese conosciuto come Mr. Pink, noto venditore di bevande al ginseng, imprenditore, in realtà il suo nome vero è Po Kui Ying Wan Sou. Ecco, avrò fatto come minimo 85 errori di pronuncia, ma va bene così. Il mistero è questo: che cosa ha firmato in quel contratto Berlusconi? Subito si è diffuso, anche il nostro Alberto Forchielli, intervistato dal Corriere, dice: vedete, vende il Milan ai cinesi. In realtà fanno sapere al Corriere che lui non può firmare per vendere il Milan, perché è la Fininvest che deve firmare, al limite l'amministratore delegato della Fininvest che può firmare la vendita di quote del Milan. E quindi cosa ha venduto Berlusconi ai cinesi? Il mistero della foto dell'ex cavaliere con il cinese Mr. Pink. Un'intera pagina del Corriere, pagina 10, non vende il Milan, pare abbia venduto una villa, forse Villa Certosa in Sardegna, forse Villa Gernetto all'Esmo in Brianza, in Lombardia, dove c'è stata questa foto della firma, non si sa, però ha venduto qualcosa ai cinesi, anche perché la Gazzetta dello Sport, vi preannuncio, continua con l'idea che Berlusconi voglia vendere a Mr. B il Milan o parte del Milan, Mr. B il thailandese. Dietro a tutto questo, giura la Gazzetta, c'è Paolo Maldini, grandissimo, Paolo Maldini avrebbe fatto l'accordo con Mr. B thailandese per prendere il 51% del Milan e diventare quindi socio di maggioranza. Paolo Maldini, ve lo vedete? Ma sarebbe straordinario. L'arrivo di Paolo Maldini al Milan sarebbe una cosa incredibile e straordinaria. Vabbè, ma siamo al momento dell'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata. È l'articolo che ci fa tenere le mani strette sul volante. Assolutamente, se siete in treno, come sempre, mani sui braccioli o posizione di atterraggio d'emergenza con la testa in avanti un po' reclinata e tazzini del caffè da appoggiare. Ho preso un po' di tempo, così non avete scuse. Per quello che vi sto leggendo di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, pagina 29, sapete che paghiamo perché paga lo Stato, paga la Camera, quindi tutti noi, paghiamo una serie di immobili affittati da Montecitorio e da Palazzo Madama, cioè da Camera e Senato, al di fuori dei appunto i palazzi istituzionali. Li paghiamo all'immobiliarista Scarpellini, è un accordo che c'è da decenni. Gli affitti di Montecitorio sono pagati all'immobiliarista al doppio del prezzo di mercato. Lo svela una perizia del Demanio. Racconta, c'è la firma di Roberto Reggi, direttore dell'agenzia del Demanio, che su quella vicenda apre un nuovo scenario. C'è scritto che per uno di questi 4 immobili, classificato come Marini 3, Palazzo Marini 3, il canone giusto è di 2.720.313 all'anno. Mentre spendiamo molto di più, insomma dovremmo spendere 266 euro al metro quadro, meno della metà rispetto ai 647 euro al metro quadro pagati finora. E pensate che Scarpellini, per ridurre, per venire incontro alla Camera, ha proposto, vabbè dai, riduciamo a 618, cioè sempre il doppio, più del doppio di quello che è il prezzo del mercato. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Milan, scagnazzo dell'informazione. Bella, bella questa, eh? Il cagnaccio randagio dell'informazione, mi piace, mi piace, mi piace moltissimo, caro ascoltatore, la ringrazio, ora rientri in sé. Allora, la notizia che alle 23:36 minuti ieri è stata battuta dalle agenzie è l'assoluzione in Cassazione per Silvio Berlusconi, vicenda Ruby. Assoluzione dunque definitiva per i reati di prostituzione minorile e concussione, reati per i quali era accusato Berlusconi, è stato condannato in primo grado, assolto in appello e ora l'assoluzione definitiva confermata. È chiaro che è la notizia più fresca per i giornali che hanno fatto una ribattuta delle pagine e sono riusciti a metterlo in pagina. Assoluzione confermata, storia finita, scrive il Corriere. Silvio Berlusconi non ha commesso i reati di concussione e prostituzione minorile nella storia di Ruby, la 17enne marocchina ospite delle serate ad Arcole. Storia finita con un verdetto contrastato sul quale certamente i 5 giudici della sezione penale si sono divisi durante le 5 ore di Camera del Consiglio. Per l'accusa era certo che la telefonata del presidente del Consiglio di allora al capo di gabinetto della Questura di Milano Ostuni costrinse quest'ultimo a consegnare Ruby alla consigliera regionale Nicole Minetti. E poi era certo che fosse prostituzione minorile. Per l'appello e poi confermato dalla Cassazione non è così. Berlusconi non poteva sapere che Ruby fosse minorenne e poi non c'è stata alcuna concussione in quella telefonata. Ovviamente le polemiche sono già partite, c'è l'esultanza ad Arcore per il Fatto Quotidiano. L'urlo nella notte di Silvio Berlusconi è stato questo: ora chi mi ripagherà per tutti i danni subiti? Per il Giornale, Alessandro Sallusti è il direttore, firma l'editoriale di prima pagina. Beh, a questo punto bisognerebbe in qualche modo punire i giudici che hanno messo in piedi tutto questo. Ecco, però il Giornale me lo sono perso e quindi mo vai a trovarlo. Eccolo qua, Alessandro Sallusti. Il bunga bunga non è mai esistito. La Corte di Cassazione ha scritto la parola fine a una delle vicende giudiziarie più infami della storia della Repubblica. Migliaia di intercettazioni, milioni di soldi pubblici spesi, un premier Berlusconi ferito personalmente e politicamente, l'Italia trascinata nel ridicolo sul piano internazionale. Sarebbe un sollievo immaginare che gli autori di un simile errore giudiziario siano messi in condizione di non nuocere più, non per vendetta ma per la sicurezza di noi singoli cittadini. In un paese appena normale, la Spagna, è successo. Nel 2012 il giudice Garzón venne radiato dalla magistratura per aver messo a soqquadro la classe politica iberica senza alcun motivo o prova. Ilda Boccassini, scrive Sallusti, deve vergognarsi. La magistratura tutta deve vergognarsi di avere al suo interno esponenti che calpestano il diritto per motivi politici, ambizioni personali e collettive. Questa è la posizione molto dura del direttore del Giornale. La realtà è che la situazione giudiziaria di Berlusconi è tutt'altro che terminata. Come racconta il Messaggero a pagina 2, trovate che cosa resta di tutto questo. A preoccupare maggiormente Berlusconi è il fascicolo cosiddetto Ruby Ter. Da gennaio dell'anno scorso, con la trasmissione degli atti da parte della quinta sezione del Tribunale di Milano che ha condannato Emilio Fede a 7 anni e Lele Mora e a 5 anni Nicole Minetti nel processo Ruby Bis, Berlusconi è indagato con i suoi difensori Ghedini e Longo e con l'avvocato Giuliante e altre 21 giovani invitate alle feste di Arcore. Secondo gli investigatori, Berlusconi le avrebbe pagate le ragazze prima per raccontare ai giudici che le feste di Arcore altro non erano che cene eleganti e poi per assicurarsi il loro silenzio perpetuo sulla vicenda. Da 2.500 euro mensili ai pagamenti, dice l'accusa, estero su estero per Ruby. Insomma, i PM contano di chiudere l'inchiesta tra la fine di aprile e i primi di maggio e dunque ci potrebbe essere qualche altro problema giudiziario. In più, entro l'8 maggio i giudici del Tribunale di Sorveglianza riceveranno la relazione degli assistenti sociali su come si sia comportato Berlusconi in questo anno di servizi sociali a Cesano Boscone. E se pagasse, diciamo, arrivasse contemporaneamente la, l'accusa di avere pagato durante questo anno di avere pagato queste ragazze, ecco che Berlusconi rischia di dover scontare da capo questo anno di pena, ma stavolta non più ai servizi sociali ma agli arresti domiciliari. Il che vorrebbe dire, come dire, una fine politica, perché agli arresti domiciliari sarebbe davvero a quel punto impossibilitato anche a lasciare casa. Insomma, come vedete, la situazione è molto complicata, tanto che Berlusconi stesso racconta al Corriere: esulta, ma non posso ancora sentirmi libero. Tutto questo nel giorno in cui è arrivato invece il voto definitivo alla Camera su un voto importante, alla Camera su... sulle riforme, le riforme costituzionali, come racconta Emilia Patta a pagina 9 del Sole. In seconda lettura, non è il voto definitivo, in seconda lettura il disegno di legge costituzionale che abolisce il Senato elettivo, elimina dalla Costituzione il CNEL, elimina le province dalla Costituzione. Ah, allora quando poi verrà approvato tutto questo, sì, potremmo dire che le province sono state abolite. La riforma che anche del titolo quinto della Costituzione, insomma, tutto questo è stato approvato con 375 sì, 125 no, 7 astenuti. Ora la strada per quello che è considerato il DDL Boschi è in discesa nel terzo passaggio al Senato, che chiude la prima doppia lettura prima della pausa di 3 mesi. Si potrà intervenire solo sulla parte nel frattempo modificate alla Camera. Si tratta di modifiche pur importanti, come l'innalzamento del quorum per eleggere il Presidente della Repubblica, l'estensione del giudizio preventivo della consulta alla legge elettorale, l'Italicum, ma tuttavia non toccano i pilastri della riforma renziana. I partiti in questo si sono spaccati, soprattutto Forza Italia. Poverini, hanno il mal di pancia alcuni partiti, io l'ho twittato, hanno la bua al pancino, anche il PD, anche Bersani l'avete sentito dire: io l'Italicum non lo voterò, però il PD è stato più compatto, in questo caso è più Forza Italia che ha avuto qualche mal di pancia, perché 17 hanno scritto a Berlusconi dicendo: noi votiamo no a questa, come ci hai detto tu, a questo giro, ma vorremmo votare sì, vorremmo che ritornasse il patto del Nazareno, lo facciamo solo per fedeltà. Tra questi ci sono la Santanchè, sono verdiniani considerati, no? Capeggiati da Verdini, Massimo Parisi, D'Alessandro, Santanchè, Ravetto, Lainati, Squeri, Sarro e altri, Abrignani. Quindi sono malpancisti, sono definiti così, malpancisti. La fronda di Forza Italia cede per affetto, però Verdini, così titola il Messaggero, dice: ora via Brunetta. Brunetta, che fa 2 interviste a Repubblica e al Giornale, è il capogruppo alla Camera di Forza Italia, e sentite il solito Brunetta: guardate Repubblica, ho vinto su tutta la linea, il gruppo sta con me, Forza Italia è compatta, ho vinto io. Ha vinto Berlusconi. Io non mi dimetto perché 64 su 65 di Forza Italia hanno votato no, come abbiamo detto. Berlusconi ha vinto, io ho vinto. I verdiniani perdono pezzi. La realtà pare, raccontata dai giornalisti, altra. E cioè 17 stanno con Fitto, 17 stanno con Verdini, il resto appunto con... seguono più il capogruppo Brunetta, insomma pare un po' un gruppo alla Camera spaccato, diciamo così, spaccato. Eppure anche intervistato dal Giornale da Vittorio Macioce, a pagina 6 Brunetta dice: Renzi non ha più una maggioranza, non ce l'ha alla Camera e non ce l'ha al Senato. Insomma, il problema è dall'altra parte. Questo per Brunetta. E poi c'è la Lega, lo vedremo tra poco, sono volati ieri sera, in tarda serata anche qui, 22:30, gli stracci, perché di fatto Tosi è stato cacciato dalla Lega e lui dice: Salvini è come Caino, anche se si traveste da Abele. Ma vediamo tra poco i dettagli. Prima c'è il nostro Mauro Meazza. Buongiorno. Allora, Mauro. Buongiorno. Sei più Caino? Sei più Abele tu? Ma guarda, io mi accontenterei sinceramente di fare una parte minore in commedia, solo di segnalare qualcosina, no? non vorrei questi ruoli da protagonista che poi sono sempre ingombranti, no, perché c'è un sacco di cose da leggere sul Sole 24 Ore di oggi, quindi vorrei non essere distratto. Innanzitutto volevo dirti, non è che i due urini ti sono caduti in una cassetta di sicurezza, scusa se insisto, li uso per comprare il Milan, tranquillo. Ecco, sì, ma dall'estero lo stai facendo? No, infatti sono tutte le foto, mi pare, vabbè, non importa. Il Milan al Milan potrebbe essere un ottimo slogan, però secondo me è un po' come, no, meglio del Milan al Meazza, ecco. Beh, effettivamente quello li stonerebbe un momento. Allora, il Milan al Milan, ma se tu questi due urini devi fare entrare una cassetta di sicurezza, ti consiglio di leggere il Sole 24 Ore oggi, perché nei vari articoli di approfondimento sulla voluntary disclosure, rientro dei capitali, c'è appunto affrontato questo caso di come redigere correttamente la dichiarazione in caso appunto di beni in cassetti di sicurezza o anche di denaro contante. Ma tutto questo sul Sole 24 Ore, indovina in che pagine, dillo pure tu. No, non lo dico. Non lo dici, vabbè, ormai siamo si rifiuta di rispondere, mettiamo una nota a questo punto sul registro, mi porti il registro. Va bene, comunque è nelle pagine di norme e tributi. Non è nelle pagine di norme e tributi, invece, la dolorosa vicenda del reverse charge per la grande distribuzione organizzata, che potrebbe generare un discreto pasticcio per supermercati, insomma tutta la grande distribuzione organizzata. C'è un ricorso appunto alla UE per cercare di arginare questa novità intervenuta con legge di stabilità e ancora in attesa di dell'ok definitivo da parte di Bruxelles. Una buona notizia, perché si sblocca, si muove qualcosa nella trattativa dei bancari, lo riferiamo a pagina 19, sì. Ti voglio aiutare perché ho capito che oramai sei in difficoltà. Invece sul voto per il nuovo Senato, vabbè, c'è un rating 24, cioè una segnalazione di tutte le varie novità con anche il giudizio sulla potenziale efficacia di queste novità votate ieri, quindi vedi che ci sono tante cose. Sì. In più, poiché non sapevi nulla ieri, hai fatto scena muta sulla fattura elettronica. Oggi proprio zero di voto, sì? Pur asserendo, niente, oggi guarda, sei un disastro. Due ma domani fiducia. Puoi chiamarmi con i tuoi genitori, sì, perché così facciamo. Vabbè, comunque, visto tutto questo, guarda, oggi ci diamo un inserto a parte con il Sole 24 Ore proprio sulla fatturazione elettronica, che ricordati che debutta da fine mese, quindi non c'è mica più così tanto tempo per studiare. Guarda che poi è un attimo, il tempo passa e il voto s'abbassa, diceva il mio professore di matematica, e quanta ragione aveva. Quindi a questo punto io ti saluto con il mio abituale traffico. Alessandro Milan, il cicciottello dell'informazione. Cicciottello? Effettivamente, di recente, vabbè. Allora, dicevamo, la Lega alle 22.30 ieri, dopo che Tosi si è presentato alla Lilli Gruber a fare un'intervista e evidentemente un po' indigesta a Salvini, finita la trasmissione 8:30, si è adombrato e via comunicato stampa ha detto e ha sancito che Tosi è decaduto da militante e da segretario della Lega Veneta, dunque Tosi fuori dalla Lega. La risposta di Tosi è arrivata a stretto giro di posta. Salvini mente sapendo di mentire, mai avrei pensato di vedere in Lega il peggio della peggior politica, è un Caino che si traveste da Abele. Ecco, forse la rottura è definitiva. Interviene anche Umberto Bossi, intervistato a pagina 12 di Repubblica da Tommaso Ciriaco, dice Tosi, è un pirlone ad andarsene. Umberto Bossi dice sono per l'unità di partito, viene prima di qualsiasi altra cosa, ma stavolta era dura. Insomma, parla come se fosse già compiuta la frattura. Ogni cosa a suo tempo, abbiamo tentato. Ma senta, è trapelato che Tosi avrebbe inviato una lettera a Salvini dettando le condizioni per restare del partito. Non ne so nulla, dice Umberto Bossi. Per quanto mi riguarda non ho ricevuto nessuna lettera da lui. La verità, dice Bossi, è che Tosi ha già da tempo l'accordo con Passera per fare un partito. Lo sanno tutti. Ma anche lei però, Umberto Bossi, ne ha epurati tanti da segretario. Ma che? Ma sì, è agli atti, onorevole. Ma sì, qualcuno, ma in tanti anni è normale. Comunque, Bossi dice sbaglia Tosi ad andarsene e aggiunge Tosi è uno di estrema destra, quella veronese. Adesso ha fatto l'accordo con Alfano, io non c'entro mai niente con l'estrema destra. Così parlò Umberto Bossi, ma pare ormai finito l'amore e il legame tra la Lega e Tosi. Veniamo alle questioni di cronaca e soprattutto cronaca estera. Oggi c'è un bellissimo profilo che Alberto Negri sul Sole 24 Ore fa del generale Haftar, Califa Haftar. Chi è? È il generale comandante della Cirenaica, cioè comandante del governo di Tobruk, che è quello internazionalmente riconosciuto in Libia. Che cosa... Beh, intanto il profilo lo trovate a pagina 1 del Sole 24 Ore. Dateci armi e spazzeremo via il califfato. Ecco, questa è la proposta che il generale Haftar ha fatto all'Italia. Armateci e noi penseremo a sconfiggere l'ISIS. Ora Alberto Negri parte da questa prospettiva a dire: ci si può fidare di Califa Haftar, uomo dalla fama controversa, appena nominato comandante in capo della Cirenaica, chiede direttamente a Matteo Renzi di schierarsi col governo di Tobruk. Haftar chiede così di affossare la mediazione dell'ONU, liberare il suo esercito dall'embargo internazionale di armi, promettendo in cambio di spazzare via il califfato. Un'offerta allettante ma insidiosa, che nello sbandierare la lotta all'ISIS nasconde altri obiettivi, oltre che le evidenti ambizioni personali del nuovo uomo forte. È considerato da alcuni una sorta di Garibaldi libico, da altri un golpista mancato. Insomma, scrive Alberto Negri, Haftar è un settantenne dall'aria mite, ma con un senso della lealtà molto flessibile, una lunga storia di conflitti e cambi di casacca alle spalle. Nel 69 partecipò al colpo di stato di Gheddafi, ma alla fine degli anni 80 si schierò contro il colonnello. Fu costretto a rifugiarsi negli Stati Uniti per 20 anni e è tornato in Libia per lanciare l'operazione Dignità contro le milizie islamiche di Bengasi. C'è da fidarsi? Questa è la domanda con il profilo di Alberto Negri sul Sole 24 Ore che trovate in prima pagina e poi a pagina 21. Vabbè, tralasciamo l'orrore dell'ISIS, il nuovo video è quello di un bambino sui 10 anni, così a giudicare dalle fattezze, che giustizia con un colpo in fronte una persona, un uomo considerato spia di Israele. Ecco, questo è il nuovo video dell'orrore dall'ISIS. Riguardo alla cronaca, invece, vi segnalo sulla Stampa una bella intervista a Camilla T. Non si qualifica col cognome, 22 anni. Chi è costei? È colei che ha donato gli ovuli per donne che non possono diventare madre. Ha 22 anni, fa l'universitaria, dice è stato un gesto di solidarietà. La polemica è scoppiata perché ci sono state alcune interrogazioni parlamentari a dire se questa ragazza ha donato gli ovociti in cambio di soldi è un reato. Camilla T dice sì, faccio parte del gruppo di ragazze che hanno donato gli ovociti per aiutare le donne sterili in cura alla clinica Almares Fertility. Perché l'ho fatto? Volevo rendermi utile, volevo aiutare chi vuole diventare mamma e da sola non ce la fa. Io arrotondo anche con un lavoretto part time, ma la donazione non l'ho certo vissuta come un lavoro, come un'opera di bene. L'ho vissuta così, tanto più che il guadagno è stato giusto un rimborso spese. In realtà si è scatenato il putiferio, si sono scatenate le polemiche, c'è anche un esposto in procura, un'interpellanza parlamentare da parte di Eugenia Roccella, che viene intervistata dalla Stampa e dice vorrei che fosse chiarito che questa studentessa come le altre non siano state pagate, perché se fosse così, cioè se ha ricevuto dei soldi, è stato commesso un reato, essendo vietata dal nostro paese la commercializzazione di ovociti. Trovate sulla Stampa, ma veniamo al momento conclusivo. Quello della carta costa, quello dell'articolo più inutile a mio insindacabile giudizio, scovato sui giornali oggi un'intera pagina di Thomas Leoncini, e saltiamo sul Fatto Quotidiano, che sul Secolo XIX, eccolo qui il Secolo, ci sono i consigli del dietologo dagli Stati Uniti, sentite i consigli, si dimagrisce con la psicologia, le forchette le posate piccoline, i bicchieri per il vino più stretti, i piatti piccolini, così mangiate meno, no? Ma chi se ne frega!